24, la storia. Ancora una volta l'Iran è una delle zone più calde e più inquiete del mondo. E così dal 1979, da quando quel paese si è ribellato alla dittatura dello Shah abbracciando la rivoluzione islamica. Da allora ha sfidato l'America, ha minacciato Israele, ha tenuto il mondo con il fiato sospeso per il suo programma nucleare. Ma quella dell'Iran è una storia millenaria che ha visto la gloria dell'impero persiano di Ciro il Grande, dei parti, gli unici che sono stati capaci di tenere testa all'antica Roma, salvo poi subire secoli di invasioni straniere, prima arabi e turchi, poi la devastante conquista mongola, infine quella delle potenze coloniali europee. E allora la storia dell'Iran nell'ultimo secolo rappresenta forse proprio questo, il tentativo di una nazione orgogliosa di riprendersi quello che ritiene essere il posto che le compete nel mondo, un ruolo da protagonista. La domanda del resto non è se domani avremo a che fare con l'Iran, ma la domanda è con quale Iran in futuro avremo a che fare. Questo è un dramma che inizia negli anni 50. La posta in gioco è il petrolio. Primavera 1951. Il Parlamento iraniano, sulla spinta dei moti patriottici, vota la nazionalizzazione delle risorse petrolifere. Ancora prima di Nasser in Egitto o di Nehru in India, Mossadegh incarna la rivolta di quello che in quegli anni viene definito il terzo mondo contro il colonialismo. Ascoltiamo Parviz Mina, direttore della società petrolifera iraniana negli anni 70. Mossadegh era un vero nazionalista. Odiava l'influenza inglese in Iran ed era giunto alla conclusione che il solo modo per impedire questa influenza era nazionalizzare l'industria petrolifera e liberarsi della compagnia petrolifera anglo-iraniana. Gli iraniani capiscono ben presto che questo ritrovato orgoglio nazionale ha un prezzo da pagare particolarmente elevato. Londra impone l'embargo totale, il movimento nazionalista si trova privo di spazi di manovra. L'Iran è governato da un uomo ormai fisicamente indebolito, ma politicamente molto determinato. In contrasto con la carta dell'ONU, la Gran Bretagna ha applicato delle sanzioni economiche in modo arbitrario contro una nazione pacifica che sostiene la giustizia e la democrazia. L'economia iraniana era soggetta alle sanzioni, le sanzioni petrolifere. È stato il primo embargo di questo tipo nella storia. Queste sanzioni hanno privato il paese di tutti gli introiti derivanti dalle esportazioni. Era Ghanimi Fard, del centro studi dell'OPEC. L'embargo cementa una sacra unione. Rientrato dall'esilio qualche anno dopo, l'Ayatollah Khashani realizzerà l'unione tra il partito nazionalista e quello religioso. Ascoltiamolo. Il solo ostacolo al progresso delle riforme, soprattutto negli ultimi 50 anni, viene dal fatto che la Gran Bretagna domina il petrolio e si inserisce illecitamente in tutta la sfera politica, economica e sociale del nostro paese. I delegati del governo hanno preso l'aereo per incontrarsi con gli inviati della Gran Bretagna. Come viatico portano il Corano, l'abbraccio del grande Mullah e una delle bandiere sventolate dei loro sostenitori che porta la scritta «Se Dio è con noi, quale ostacolo potrà fermarci?» Bisognava controllare attentamente questo processo. Era necessario contenere l'influenza britannica, ma anche evitare che l'URSS avesse accesso al petrolio ed esercitasse la sua influenza sull'Iran. Questi erano i due aspetti principali, il petrolio e la guerra fredda. Un altro partito è pronto a intervenire sulla scena. È erede anch'esso degli ideali rivoluzionari del 1905. È il partito Tudeh, il partito comunista che scende per strada per conto di Mosca. Le manifestazioni culminano con la distruzione dei simboli della compagnia e l'innalzamento della bandiera iraniana sugli impianti. Si fanno disperati tentativi di mediazione con la Gran Bretagna, che si appella alla Corte Internazionale dell'AIA e ottiene un'ingiunzione temporanea contro il sequestro. È il momento per gli americani di entrare in scena. Il presidente Truman invia il suo emissario Avert Harriman. Scopo ufficiale della missione è mediare tra Iran e Gran Bretagna. Harriman ha avuto una serie di incontri con il primo ministro Mossadegh. Da questi incontri si ricava la speranza che la crisi che minaccia la pace mondiale possa essere evitata. Come già avvenuto in Corea, come avverrà in Guatemala, in Indonesia, in Vietnam, anche in Iran, gli americani decidono di intervenire. Il loro obiettivo principale è il contenimento del comunismo. Man mano che le potenze europee arretrano, Washington colma il vuoto lasciato da Londra o altrove da Parigi. La crisi petrolifera iraniana arriva in America. Il primo ministro Mossadegh è giunto a New York per sostenere la sua causa davanti alle Nazioni Unite. Il Consiglio di sicurezza non ha alcuna competenza per esaminare la questione. Sia l'ONU che il Tribunale dell'Aia si dichiarano non competenti a giudicare in materia. Mossadegh ottiene una doppia vittoria, ma Washington teme che l'esempio iraniano sia contagioso. L'America, al culmine della campagna anticomunista del senatore McCarthy, si dibatte tra diritto internazionale e il controllo del petrolio. Ascoltiamo ancora Garimi Farda del Centro Studi dell'OPEC. Gli americani mentivano. Hanno mentito a Mossadegh in occasione della sua visita a Washington. Hanno mentito quando si sono mostrati accondiscendenti con lui. Hanno mentito quando hanno detto che avrebbero trovato una soluzione politica. Certo che volevano trovare una soluzione, ma esclusivamente ai loro interessi. Volevano prendere il posto della Gran Bretagna, che aveva dominato l'Iran per così tanto tempo. Mossadegh vuole un Iran democratico. Mette da parte i comunisti e prende le distanze da Khashani, il presidente del Parlamento. Negli Stati Uniti, intanto, il nuovo presidente Eisenhower vuole risolvere la questione Mossadegh. Prendere le distanze dai rappresentanti religiosi è stato il suo primo errore. Mossadegh dimenticò che senza il sostegno dei leader religiosi e delle masse, ben presto si sarebbe trovato nell'impossibilità di contrastare la CIA e i servizi segreti sovietici che cercavano di infiltrarsi nel paese. Alberto Negri, qual è, se c'è stato, l'errore di Mossadegh? Ma credo che l'errore di Mossadegh sia stato quello di in qualche modo mettersi in contrapposizione frontale con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Cioè non ha capito la potenza diciamo della Gran Bretagna prima e poi degli Stati Uniti? Diciamo che più che gli errori di Mossadegh, diciamoci la verità, era la forza che avevano allora gli Stati Uniti e la Gran Bretagna di poter condizionare la politica interna di un paese che pure stava a migliaia di chilometri dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Questo fu l'errore di Mossadegh. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24 con la storia dell'Iran. Chi dovrà sostituire il nazionalista Mossadegh alla guida dell'Iran? Gli Stati Uniti decidono di puntare sulla famiglia reale iraniana. Il 19 agosto del 1953, dopo un lungo braccio di ferro, Mossadegh viene rimosso dal potere. Il nuovo uomo forte dell'Iran sarà Reza Pahlavi. 19 agosto 1953. In Iran la confusione è totale. I comunisti, i religiosi con alla testa l'Ayatollah Khashani, la polizia, l'esercito, i lealisti pagati dall'ambasciata americana sono nelle piazze. Nella notte viene assaltata e distrutta la casa di Mossadegh. È l'operazione Ajax. Ad orchestrarla, la CIA. Cacciato da Mossadegh, lo Shah vede trionfare nuovamente la sua causa e può tornare al potere grazie alla controrivoluzione organizzata a Teheran dal suo primo ministro Zahedi, appoggiato dall'esercito e dalla polizia. Mossadegh viene esiliato. Il suo ministro degli esteri viene giustiziato. Mentre l'Ayatollah Khashani viene censurato e isolato. La SAVAK, la polizia segreta dello Shah, scatena la repressione. Viene smantellata una rete di circa 500 funzionari comunisti. 28 alti funzionari vengono passati per le armi. I movimenti studenteschi vengono repressi duramente. L'ultimo simbolo, Nawab Safavi, un fondamentalista, il primo a reclamare l'instaurazione di una repubblica islamica, viene condannato a morte e giustiziato per gli attentati terroristi commessi dai suoi sostenitori. Come tanti altri, prima di lui, anche Safavi recita il Corano fino all'ultimo istante. L'Iran sciita ha i suoi nuovi martiri. Prima dell'arresto, Safavi si reca a Qom per incontrare un giovane Ayatollah che rifiuta l'azione armata, ma dice, confida nel popolo. Il suo nome è Rullah Khomeini. Lo Shah è convinto di aver eliminato definitivamente l'opposizione, ma si sbaglia. Da secoli, dopo l'assassinio di Ali e Hussein, il genero e il nipote del profeta, gli sciiti trovano forza nei gesti estremi e nel sacrificio. Con le sue scuole di teologia, Qom, la città santa, diventa il rifugio della resistenza. Ascoltiamo Charles Cogan, ex direttore della CIA, e Harold Sanders, sottosegretario di Stato americano negli anni Ottanta. Gli Stati Uniti non hanno compreso affatto fino a che punto era offensivo per il popolo iraniano riportare al potere lo Shah. E questo ha avvelenato i rapporti per i successivi 25 anni. Per dirigere il paese cerchiamo persone che non si prestino ad agevolare l'espansione dell'impero sovietico. L'Iran prepara il tappeto rosso, il tappeto persiano, per salutare l'arrivo di Aik, con una carovana di auto che passa su costosi tappeti persiani stesi sull'asfalto, mentre il presidente viene salutato da oltre 750.000 persone. Nel Palazzo Reale lo Shah consegna al presidente Eisenhower un ritratto che sarà conservato nel Museo Eisenhower di Abbey Lane a ricordo di questo viaggio storico. All'epoca avevamo la profonda convinzione che l'energia nucleare fosse una fonte importante di energia per il mondo. La storia del programma nucleare iraniano comincia quindi da lontano, negli anni 50, sotto la presidenza Eisenhower. L'Iran viene ammesso al programma Atomi per la Pace. Mentre Washington fornisce tecnologia nucleare, Teheran aderisce al patto di Baghdad insieme ad Iraq, Turchia e Pakistan, un accordo di difesa reciproca in funzione anticomunista. Il programma Atomi per la Pace è strategico. Ponendo l'Iran al centro del patto di Baghdad, l'America intende accerchiare l'Unione Sovietica. Teheran diventa un satellite di Washington che, a sua volta, fornisce all'Iran il suo primo reattore nucleare. Urbanizzazione, industrializzazione, militarizzazione. Lo Shah vuole fondare la grandezza dell'Iran sul modello occidentale. All'inizio degli anni 60, il giovane Shah, inesperto, portato al potere dagli alleati nel pieno della guerra mondiale, lascia il posto a un autocrate determinato. Lo Shah, che vorrebbe essere considerato un monarca illuminato, appare invece un dittatore da terzo mondo. Ma la macchina del terrore necessaria a sostenere il suo regno finisce per preoccupare anche il suo protettore. Il presidente Kennedy pensava che la situazione fosse il risultato della mancata modernizzazione dell'Iran, ossia della mancata occidentalizzazione del sistema, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Maestà, a nome di tutti i miei concittadini, le auguro il benvenuto negli Stati Uniti d'America. I nostri interessi sono identici: mantenere la libertà, conservare la pace e offrire una vita migliore ai nostri due popoli. Gli americani sentivano di dover agire nei paesi del terzo mondo, altrimenti sarebbero tutti caduti inevitabilmente nelle mani dei comunisti. L'Iran è un paese fondamentale per la difesa del mondo libero. L'Iran confina per 1400 miglia con la vicina Russia. Non era possibile che Mosca inglobasse nella sua orbita questi paesi. Eravamo in piena guerra fredda, che America e Russia combattevano per via indiretta nel terzo mondo. Il presidente Kennedy ha assistito alle prove militari della flotta prima di seguire dalla spiaggia di Onslow, in compagnia dello Shah, le straordinarie manovre aeree e navali. Proprio in questo periodo l'Ayatollah Khomeini entra a pieno titolo nello scenario politico che si è aperto con l'insediamento di Mohammad Reza Pahlavi. Ascoltiamo l'Ayatollah Yusuf Sanei. All'inizio l'imam non voleva assolutamente nessun cambiamento di regime. Si limitava a suggerire allo Shah di porre termine alle sue relazioni con il sionismo, con Israele. Non diventare schiavo dell'America. Gli diceva: segui la legge islamica e resterai re. ma il re dei re deve piegarsi all'America di Kennedy. Bisogna fare dell'Iran un esempio di liberalismo. Lo Shah revoca la legge marziale, difende la libertà di stampa e concede il diritto di voto alle donne, ma soprattutto introduce la riforma agraria. Ha inizio la rivoluzione bianca. Ascoltiamo lo stesso Shah e poi Jean-François Poncet, allora ministro degli esteri francese. Si tratta di una specie di rivoluzione socialista avviata dall'alto. Sì, assolutamente. Già 20 anni fa abbiamo detto apertamente, proprio qui, che se non fossimo riusciti ad avviare un cambiamento dall'alto per il popolo e il paese, avremmo dovuto attenderci una rivoluzione dal basso. Questo, evidentemente, ha messo lo Shah in contrasto con tutta l'aristocrazia terriera, ma anche con gli sciiti, perché i mullah erano fra i maggiori proprietari terrieri in Iran. Il clero sciita, guidato dall'imam Khomeini, temeva il dispotismo di Mohammad Reza e pensava che la rivoluzione bianca e il referendum avrebbero di conseguenza rafforzato il suo potere e la sua tirannide. Nei suoi violenti sermoni, l'ayatollah di Qom attacca l'America, la riforma e infine la stessa monarchia. Lo Shah decide di farla finita. Nell'ottobre 1964, Rollah Khomeini viene espulso. Un aereo lo porta prima in Turchia, quindi in Iraq. In Iran torna in scena il copione di sempre. Assassini, colpi di Stato, esili. Mohammad Reza Pahlavi crede di aver conquistato il potere assoluto. In realtà ha solo aperto un vaso di Pandora. Nel 1967 il re dei re si autoincorona luce degli ariani. Ascoltiamo ancora Jean-François Poncet, ministro degli esteri francese negli anni 70. La Francia ha sempre ritenuto che l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare dovesse essere messo a disposizione dei paesi in via di sviluppo, e questo era il caso dell'Iran. I colori iraniani sventolano su Versailles, mentre l'imperatore dell'Iran sorvola in elicottero la prestigiosa sede che la Repubblica riserva ai suoi ospiti ufficiali. La sua idea era di importare la tecnologia nucleare in Iran. Cosa possiamo acquistare in Francia? Innanzitutto, le vostre centrali nucleari. Voi siete all'avanguardia in questo settore. Il programma nucleare iraniano è stato realizzato in collaborazione con gli americani, poi con i francesi, sia nel quadro degli scambi di scienziati, sia al fine di creare le infrastrutture indispensabili per il programma nucleare iraniano. Shah persegue nella sua politica di investimenti industriali. Ha appena acquistato il 25% del capitale di Eurodif. In pratica, dopo l'acquisto di 2 centrali nucleari e la stipula degli accordi di collaborazione tecnica fra i 2 paesi, è il turno del combustibile nucleare. Ma come contropartita del prezzo di partecipazione in Eurodif, l'Iran riceverà il 10% della produzione di uranio arricchito di Pierlat. Inoltre, lo Shah ha concesso un prestito di $1 miliardo destinato al commissariato dell'energia atomica. Le conversazioni avviate riservatamente sono proseguite all'Eliseo nel corso di incontri allargati che hanno consentito ai 2 capi di Stato di fare il punto sulla collaborazione economica tra i loro paesi. Sono state prese tutte le precauzioni del caso per garantire che quello che facevamo in materia di sviluppo nucleare con questi paesi non potesse servire a fini militari. Vogliamo abbinare la tecnologia moderna allo spirito della nostra antica civiltà. Tecnologia e tradizione sembrano convivere sotto la guida dello Shah in Iran, ma è un equilibrio debole. Lo raccontiamo dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. In Iran, il governo dello Shah, alleato degli Stati Uniti, assume tratti assolutistici. Come se il tempo non fosse trascorso, lo Shah vuole festeggiare Ciro, che 200 anni prima unificò l'impero persiano. Il mondo intero viene invitato ai grandiosi festeggiamenti previsti a Persepoli. Unico assente, il popolo iraniano, Con voce rotta dall'emozione, lo scià si rivolge allo spirito del re vissuto nel lontano passato. Shahanshah-e Iran! Oh Ciro, grande re, re dei re, re degli Achemenidi, re della terra dell'Iran, io, Shah dell'Iran, ti porto i saluti miei e della mia nazione. Lo Shah Mohammad Reza ha allora deciso di aggiungere ai suoi trofei reali anche quello di autocrate. Ha dissolto tutti i partiti politici, compresi quelli che gli erano favorevoli, e ha creato un partito unico, il Partito della Resurrezione. Ascoltiamo lo Shah Reza Pahlavi incalzato da un giornalista americano. L'Iran allora non avrebbe compiuto grandi progressi in una vera democrazia. Cosa sarebbe comunque questa democrazia? Lei come la definirebbe? Democrazia? L'America non è forse un paese democratico? Non quanto la democrazia greca, che esprimeva il consenso nella pubblica piazza. Noi eleggiamo i nostri rappresentanti. Sì, ma dopo il Watergate, con criteri, diciamo, molto particolari. Lei ammette che gli Stati Uniti sono più democratici dell'Iran? Iran? Dell'Iran. Le ripeto, lei cosa intende per democrazia? Libertà di pensiero, di espressione, libertà di stampa. Fino a che punto? Mi riferisco all'elezione dei rappresentanti, all'esistenza stessa di un'opposizione. Fino a che punto? Sì, ma fino a che punto? Se parliamo di questa cosa autodistruttrice e masochista, che consente la frode e la corruzione, allora voi l'avete ottenuta. Una democrazia permissiva. Lo stile di vita dello Shah, l'immagine che la famiglia trasmetteva, i suoi viaggi in Occidente, i soggiorni nelle più rinomate località sciistiche, facevano apparire un personaggio, una famiglia, un ambiente che non avevano più alcun rapporto con la popolazione iraniana. E lo Shah è vissuto nell'illusione di essere popolare. Gli portavano davanti questi contadini che gli baciavano la mano e si illudeva di essere popolare. Provavamo un falso senso di sicurezza e stabilità. Ricordate il famoso discorso tenuto il 1 gennaio 1978 da Jimmy Carter? Grazie alla grande leadership dimostrata dallo Shah, è un'isola di stabilità in una delle aree più instabili del mondo. Alla fine del 78 era già tutto finito. Avete ascoltato Charles Cogan, ex direttore della CIA. Nel 1978 per l'America l'Iran è una certezza, un alleato affidabile e solido in una regione chiave e tormentata. Una nazione potente e popolosa, e se il regime dello Shah non brilla per democrazia, sembra comunque essersi impegnato per la modernizzazione del paese. Nel giro di pochi mesi però tutto cambia. L'Iran sprofonda nella teocrazia islamica. Ce ne parla Richard Nelson Fry dell'Università di Harvard e poi sentiamo in un'intervista lo Shah. La prima rivoluzione è stata guidata dagli studenti, non dai mullah. Solo dopo se ne sono impossessati i religiosi. A lei stanno bene i metodi adottati dalla SAVAK per ottenere le confessioni? Applicano metodi efficaci, semmai siete voi in Gran Bretagna che siete accusati di usare la tortura. Solo che noi non ne siamo fieri. Non si vedeva nel regime dello Shah un sistema aperto al dialogo e in grado di porre in atto le riforme cui aspirava il popolo. L'Occidente, che sosteneva lo Shah, non ha saputo imporgli di lasciare alcune valvole di sfogo. In senso politico, una monarchia costituzionale che forse avrebbe consentito di evitare l'ampio sostegno di cui hanno goduto le moschee e l'Ayatollah Khomeini. Era Herbert Vedrine, ex ministro francese. Mentre Mosca e Washington continuano la loro guerra fredda, lo Shah non capisce che il mondo è cambiato. In Iran, come altrove in Medio Oriente, la rivoluzione ormai ha un carattere decisamente religioso. Ascoltiamo Hashemi Rafsanjani, presidente dell'Iran negli anni 90. Il nostro movimento era sia rivoluzionario che islamico. I religiosi come noi, che seguono l'imam, hanno fatto la rivoluzione contro il dispotismo, ma rimanendo dentro l'Islam. 7 settembre 1978. Per la prima volta dal suo insediamento, i manifestanti chiedono che lo Shah se ne vada e che l'imam Khomeini possa tornare. La sera stessa viene dichiarato il coprifuoco. 24 ore dopo, venerdì 8 settembre, l'esercito apre il fuoco sulla folla riunita a Piazza Jaleh. È un bagno di sangue. I morti sono centinaia. Ma il sangue del popolo diventa il sangue dei martiri. I segni sciiti si confondono con i simboli rivoluzionari. Per lo Shah è già troppo tardi. Il sangue versato dai manifestanti segna la fine del regime dello Shah, mentre Reza Pahlavi fugge dall'Iran, l'Ayatollah Khomeini rientra dall'esilio. Jean-François Poncet, allora ministro degli affari esteri francese, e Charles Cogan, allora direttore della CIA per il Medio Oriente. Khomeini è stato accolto a braccia aperte ed è rimasto a Neuf-le-Château. E qui, non appena ristabilitosi, ha cominciato a registrare su audiocassette le preghiere con cui incitava alla rivolta che i suoi sostenitori trasmettevano poi a Teheran. Le sue prediche, così virulente, venivano diffuse dagli altoparlanti sui tetti di Teheran, da un edificio all'altro. Si è rivelato molto efficace. Era evidente che Khomeini rappresentasse l'opposizione. Khomeini, ovviamente, ha utilizzato la religione per sollevare le masse e dar loro voce. Ha dato voce al popolo, ha dato forma al risentimento, che ha tradotto in termini religiosi e anti-occidentali. Ora, ad avviarsi verso l'esilio è Mohammad Reza Pahlavi. Dall'inizio del XX secolo, l'Iran viene scosso da continui terremoti. Prima di lui, gli ultimi Qajar, Reza Shah, l'Ayatollah Kashani e Mossadegh. Forse il volto dello Shah è segnato dalle lacrime mentre lascia l'Iran per sempre. Ma i volti dei dimostranti esprimono tutta la loro gioia quando a migliaia occupano le strade della capitale per festeggiare la partenza dell'uomo che hanno odiato per così tanto tempo. Non c'è alcun dubbio che in Iran nessuno più dell'Ayatollah Khomeini ha maggiori seguaci e potere. John Suchet per il TG delle 10, Teheran. Con l'arrivo dell'imam Khomeini, a Teheran ha inizio il solito rito della violenza rivoluzionaria. In nome delle fazioni più intransigenti, l'Ayatollah Khalkhali organizza le purghe. La tomba di Reza Shah viene distrutta dai guardiani della rivoluzione. I dignitari del vecchio regime vengono giustiziati per ordine dei tribunali dopo un processo sommario. Questo soltanto nel primo anno. A seguire c'è l'instaurazione della Repubblica Islamica, la consacrazione della guida suprema e la fusione della legge civile con quella religiosa. Alberto Negri, cosa non ha capito lo Shah Reza Pahlavi prima della rivoluzione iraniana? Ma Mohammad Reza Pahlavi era un uomo ambizioso che voleva fare del suo paese una superpotenza regionale. Ma per raggiungere questo obiettivo non bastava che l'Iran avesse un esercito, un'economia forte, era anche necessario che in qualche modo ci fossero delle riforme. Reza Pahlavi avviò queste riforme, soltanto che in qualche modo aprirono anche la strada all'opposizione, cioè diedero in qualche modo la possibilità all'opposizione, allo Shah, sia a quella di carattere religioso che a quella laica dei partiti. Ricordiamo che allora l'Iran aveva il Partito Comunista Today, che era il più forte del Medio Oriente, di poter in qualche modo condurre un'opposizione al potere assoluto dello Shah. Lo Shah non capiva e non capì fino all'ultimo che in realtà stava perdendo le redini del paese. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24, con Marina Milone stiamo ripercorrendo la storia dell'Iran. Dopo il ritorno dell'Ayatollah Khomeini, il 4 novembre del 79, l'ambasciata americana a Teheran viene assaltata da un gruppo di studenti islamici. i dipendenti dell'ambasciata vengono legati e bendati e fatti sfilare davanti alle telecamere. È l'inizio di un incubo che durerà 444 giorni. Ascoltiamo ancora l'ex direttore della CIA, Charles Cogan, Harold Sanders, sottosegretario di Stato per il Medio Oriente, e gli studenti autori di quella rivoluzione. Ricevetti una telefonata dal mio assistente verso le 6 del mattino. Allora dirigevo il centro operativo in Medio Oriente. Le sue parole esatte furono: stanno scalando il muro. Gli studenti stavano invadendo l'ambasciata. Una delle voci che mi è rimasta più impressa nella memoria diceva: hanno sfondato la porta. Dobbiamo scendere. La linea è rimasta aperta per un po'. E si potevano sentire i rumori di fondo. Poi è stata interrotta. Se sapevamo che stavamo violando un territorio straniero, certo, ne eravamo consapevoli. Bisogna immaginare il contesto in cui gli studenti hanno preso questa decisione. Erano i primi mesi della rivoluzione e il paese era sul punto di sprofondare nel caos. A tutti venne subito in mente il colpo di Stato che c'era stato ai tempi di Mossadegh, all'origine dei cattivi rapporti con gli Stati Uniti. Il colpo di Stato del 1953 contro Mossadegh è stato un episodio molto oscuro della nostra storia. Ha portato ad anni di dominio straniero, colonialismo e dittatura. Sin dall'inizio eravamo perfettamente consapevoli che il risentimento per il colpo di Stato del 1953 e per il ruolo degli americani era profondamente radicato nella memoria collettiva. Gli studenti hanno avvertito ancora una volta che la rivoluzione era minacciata dallo straniero e che la storia avrebbe potuto ripetersi. In nessun momento abbiamo pensato che questi eventi avrebbero avuto conseguenze così gravi. Pensavamo che tutto sarebbe durato soltanto qualche giorno, non di più. Non c'era stato alcun precedente al mondo a cui fare riferimento. Finalmente, dopo diversi mesi, siamo riusciti a pianificare un'operazione che, pur evitando un vero conflitto, ci avrebbe consentito di liberare gli ostaggi. Il cosiddetto tentativo di salvataggio si trasformò in un disastro per il governo americano. Quell'episodio è stato particolarmente umiliante per gli Stati Uniti. I gruppi speciali americani vengono annientati da una tempesta di sabbia. E come umiliazione ultima per Carter, la liberazione degli ostaggi viene orchestrata in modo da coincidere con l'insediamento di Reagan alla Casa Bianca. Ma il rogo degli elicotteri nel deserto annuncia nuovi conflitti. Chi è che ha vinto nella crisi dell'ambasciata americana? E chi è che ha perso? La crisi ha danneggiato la rivoluzione? Ha interrotto lo slancio rivoluzionario dell'Iran, frenando l'avanzamento della rivoluzione islamica iraniana nella regione? Ecco, quale rapporto esiste tra la crisi dell'ambasciata e la guerra fra Iran e Iraq? Alberto Negri, ma qual è il legame, sempre se c'è, tra la rivoluzione e poi l'avvento, e quindi poi l'avvento dell'Ayatollah Khomeini, e la guerra che scoppia poi tra Iran e Iraq? Ma dunque, l'Ayatollah Khomeini va al potere nel febbraio del 1979. In quel momento nessuno pensava che l'Iran potesse diventare una repubblica islamica. Anzi, addirittura gli studenti e, come dire, i suoi supporti che lo avevano accompagnato dall'esilio in Francia nel Château al ritorno a Teheran avevano elaborato una costituzione che era improntata un po' su quella francese e un po' addirittura su quella belga. Quindi un paese con una in realtà con una costituzione di stampo occidentale. Poi fu a prevalere l'ala islamica del movimento, e questo in qualche modo ebbe un effetto dirompente su tutta la regione, in particolare sull'Iraq. L'Iraq, ricordiamolo, aveva una maggioranza sciita, il potere allora era già in mano a Saddam Hussein, che in qualche modo si trovava come rappresentante della minoranza sunnita a subire, come dire, l'opposizione sciita. Un Iran che era diventato una repubblica islamica, che era un paese a maggioranza sciita, rappresentava un pericolo anche per loro. La relazione che c'è tra la guerra del 1980 scatenata dall'Iran, dall'Iraq, la relazione che c'è tra la guerra scatenata nel 1980 dall'Iraq contro l'Iran è proprio questa, cioè il fronte sunnita in qualche modo si mobilita contro l'Iran sciita, tant'è vero che Saddam Hussein sarà finanziato abbondantemente dalle monarchie del Golfo e anche appoggiato dagli Stati Uniti. La guerra fra Iran e Iraq è stata una delle più violente dell'epoca e ha contrapposto due fra i principali produttori mondiali di petrolio. La produzione iraniana ne ha sofferto, come quella irachena, perché il conflitto si è svolto sostanzialmente nella regione dei giacimenti a nord del Golfo Persico. La guerra fra Iran e Iraq, la guerra di Saddam Hussein contro l'Iran, non è stata altro che una congiura dell'Occidente contro la Repubblica Islamica, e questo è successo senza alcun dubbio. Le tre grandi forze presenti nella regione si nascondevano dietro Saddam nella guerra contro l'Iran. Ciascuna aveva le sue ragioni per collaborare con l'Iraq, anche perché gli occidentali dovevano rinunciare a tutti gli interessi che avevano in Iran. Gli Stati Uniti non volevano un Iran vittorioso, in grado di dominare la regione. Quanto ai paesi più reazionari del Medio Oriente, avevano paura che la rivoluzione si propagasse fino a coinvolgerli direttamente. Saddam Hussein faceva la guerra contro la diffusione della rivoluzione sciita iraniana in Medio Oriente. Era un conflitto per impedire che la religione, con il suo carico di fanatismo, infiammasse tutto il Medio Oriente. Si può dire che in Occidente la paura della rivoluzione islamica e delle eventuali ripercussioni sull'insieme del mondo arabo-musulmano era più importante delle critiche avanzate al regime di Saddam Hussein, che all'epoca era considerato certamente un dittatore autoritario e spietato, ma comunque modernista. Credo che gli Stati Uniti avessero la convinzione, forse errata, che gli iraniani costituissero un problema più serio degli iracheni. Eravamo soli. L'Iran e l'Iraq sprofondano in una guerra che durerà 8 anni e lascerà sul terreno circa 1 milione di morti. Come la Prima Guerra Mondiale, anche questo è un conflitto contraddistinto da trincee, gas e massacri. Ma si assiste anche a una grande mobilitazione popolare. Milioni di volontari si arruolano nell'esercito rivoluzionario. È il collante che unisce la nazione. La religione dell'Iran è l'Iran stesso. Aveva solo 17 anni. Era elettrizzato dall'idea della guerra, delle battaglie. Gli hanno chiesto di aspettare, di essere maggiorenne prima di entrare nell'esercito. Ha risposto: no, io voglio andare al fronte. È morto da martire nel 1983, quando la guerra è scoppiata. Malgrado amasse studiare, era spesso in moschea con i suoi amici. Amava Dio, il Corano e la preghiera. Un altro aspetto essenziale della guerra è stato quello dell'identità nazionale. Da molto tempo gli iraniani avevano perso il senso d'identità, avevano dimenticato il prestigio del loro grande passato. Cercavano un'occasione per ritrovarsi e la guerra con l'Iraq ha dato loro questa possibilità. È la prima guerra che hanno vinto in 2 secoli. Fra quanti sono presenti in questo giorno del ricordo al cimitero dei martiri, moltissimi hanno perso un fratello, un padre, un figlio, un amico. Come potevano sentirsi vicini a un capo molto, molto più anziano di loro? L'imam Khomeini aveva all'epoca 75 anni. Come è stato possibile per questi giovani di 19 o 20 anni stabilire un legame spirituale così forte? L'imam Khomeini muore quando la guerra fra Iran e Iraq sta per finire. Della loro guida, la nazione riunita ma ormai orfana, piange un secolo di speranze ingannate. E gli iraniani, nel loro dolore, neppure immaginano che la loro sofferenza, così come la loro rivoluzione, spaventa il mondo.